Dunque, quando la persona diventa cieca alla propria anima, diventa cieca alle sue vere esigenze, ai suoi talenti. La sua strada sarebbe stata questa qui, questo sarebbe stato nel suo fiume della vita, insieme al fiume più ampio della vita. Invece dove finisce? Finisce dominato dall'ego. Nell'ego non può farsi idee corrette per la ragione che abbiamo detto prima, qui si fa delle teorie ombrello, cioè delle coperture delle vere sue esigenze, che non capisce, sia riguardante le esigenze sue, sia le conoscenze del mondo, e a queste idee così allucinatorie mette a disposizione a queste idee la sua energia vitale. È chiaro che dal fiume della vita imbocca ben presto il tunnel che lo porta alla pozza della nevrosi, dove la persona soffre in modo più o meno evidente. E i demoni dove stanno? Allora, c'è una tradizione che dice che ogni persona ha un daimon, la tradizione greca, insomma, ogni persona ha un daimon che se non viene rispettato diventa un demone. Allora, un daimon è una specie di frammento dell'anima che se non viene visto, perché la persona è cieca a se stesso, diventa demone. I demoni sono forze distruttive che criticano, generano sensi di colpa e così via. Ora, il problema è che poi i demoni non parlano tutti la stessa lingua, i contenuti sono diversi, ma comunque poi tutti si alleano di solito all'inconscio sociale, cioè alla grande bestia di come parla Platone. No? E quali sono le conseguenze? Che i contenuti possono essere del tipo: ah, non ti sei fatto una famiglia, due, ah, non hai un lavoro come ti piace, ah, non ti sei nemmeno riuscito a comprare la casa che volevi, ah, non hai la macchina che volevi, ah, nel tuo lavoro non ti stai realizzando e così via. Non importano i contenuti che sono irrilevanti, quello che conta è che questi giudizi che vengono dai demoni sono violenti. E allora l'io che si è staccato dalla propria anima, si è proprio staccato perché è diventato cieco alla propria anima, a chi si mette al servizio? Nei confronti di chi si mette al servizio? Si mette al servizio di un demone che è anteriorizzato da violenza. Quindi i giudizi che alberga al suo interno sono giudizi violenti. Ripeto, i contenuti non contano granché, conta la struttura, che è la struttura prevaricativa, l'oppressione, e questa è la forma d'onda. Adesso faccio alcuni esempi. Mettiamo che la critica sia: ah, ma tu dovevi creare una famiglia, ecco. Non sei ancora una madre, non sei ancora un padre, ecco. Allora, dal punto di vista animico, ma tutti dobbiamo diventare madri e padri, perché l'energia materna e paterna sono essenziali alla nostra vita. L'energia materna è quella dell'accoglienza, quella del femminile, quella paterna è quella della direzione, della legge, del limite. E quindi tutti dobbiamo diventare questi, ma l'ego, che non capisce queste cose, e quindi l'ego è tutto esteriore, giudica la persona solo sui risultati esteriori. Quindi, se uno è padre, comunque sia padre realizzato, se è madre realizzato, se è un lavoro importante realizzato. Ma per l'anima queste non sono sciocchezze. Per l'anima ciò che conta è la qualità dell'energia del padre, della madre o del servizio alla società quando fai un lavoro. Allora, quali qualità metti nella tua vita? Quello è ciò che l'anima intende per realizzazione o non realizzazione. Per l'ego, che si occupa solo dell'uomo esteriore, quello che conta sono ciò che si può pesare, che si può misurare, che si può mettere su una bilancia, che si può fotografare, cioè tutte cose che sono sotto i nostri sensi. Ma come ci insegnano i grandi filosofi, i nostri sensi, i sensi del corpo, che non sono allenati a diventare i sensi dell'anima, ci portano regolarmente fuori strada e ci portano alla follia usuale degli esseri umani. Allora, quindi, l'altra grande cosa che dobbiamo imparare è che ciò che è animico dipende solo da noi e si può realizzare subito, cioè la qualità della madre, cioè della capacità di dare amore alle persone, ai bambini, ma anche alle persone in generale, e in primo luogo dare amore a se stessi, è una qualità che il nostro potere è che dentro di noi far fiorire questa qualità è indispensabile ed è una qualità del cuore, una qualità dell'amore. Quindi tutti, in qualche modo, ripeto, dobbiamo diventare padri o madri di noi stessi come qualità dell'energia. Da lì in poi che cosa succede? Se noi facciamo questi passaggi, dopo, Questi sono passaggi che ci aprono l'occhio dell'anima, gli occhi dell'anima, cioè il cuore e l'intelletto. Quando siamo, per esempio, un altro caso, io voglio diventare governatore della città. Se vuoi diventare governatore? Hai la qualità? Sì, io vedrai che dimostrerò di essere capace. Bene, il primo passaggio è: sai governare te stesso? No, lo saprò fare quando... No, sciocchezze. Tu impara a produrre dentro di te il cambiamento che vuoi dal mondo. Vuoi essere madre? Diventa madre tu. Di cosa? Di te stesso. Adesso. Vuoi diventare governatore? Diventa governatore te stesso. È così che Platone ragionava. Quando dice che per creare una città ideale, i governanti futuri dovranno diventare governatori di se stessi. Quindi saper governare le proprie passioni, i propri desideri, distinguendo tra quelli egoici e quelli animici.